M. 41esima traccia. A costei non dispiacque. Desiderava di rimanere sola. La sua mente era in uno stato d'agitazione e di meraviglia che le rendeva impossibile di raccogliersi. Aveva voglia di ballare, di cantare, di gridare. E finché non si fosse mossa qua e là e non avesse parlato a se stessa, e riso e riflettuto, non poteva essere capace di nulla di ragionevole. Il padre veniva ad avvertire che James era uscito per attaccare i cavalli, in previsione della loro scarrozzata a Randalls, che adesso avveniva ogni giorno. Perciò essa ebbe un'immediata scusa per scomparire. Si possono immaginare la gioia, la gratitudine, la squisita letizia delle sue sensazioni. Allontanati così il solo ostacolo e la sola ombra nella prospettiva del benessere di Harriet, Emma correva realmente pericolo di diventare troppo felice per potersi fidare. Che cosa desiderava mai? Null'altro che divenir più degna di lui, le cui intenzioni e il cui giudizio erano stati sempre così superiori ai suoi. Null'altro se non che le lezioni della sua passata balordaggine potessero insegnarle più umiltà e circospezione in futuro. Ella era seria, molto seria nella sua gratitudine e nelle sue risoluzioni. Eppure non poteva frenare il riso, talvolta proprio nel bel mezzo di esse. Doveva ridere di una tal conclusione. Che fine della triste delusione di 5 settimane prima! Che cuore, che Harriet! Ora ci sarebbe stato piacere al suo ritorno. Ogni cosa sarebbe stato un piacere. Sarebbe stato un gran piacere conoscere Robert Martin. Tra le più serie e sentite ragioni di Letizia c'era la riflessione che presto sarebbe cessata ogni necessità di tenere qualcosa nascosto a Mr. Knightley. La finzione, l'equivoco, il mistero che essa detestava talmente di praticare, presto avrebbero potuto finire. Ora essa poteva presentarsi a dare a lui quella piena e completa confidenza che la sua indole era prontissima a riconoscere come un dovere. Con una disposizione d'animo quanto mai allegra e felice, Emma s'avviò col padre. Non ascoltava sempre, ma sempre approvava ciò che egli diceva. E, con le parole o col silenzio, secondava la persuasione di cui egli si compiaceva d'essere obbligato ad andare a Randalls ogni giorno, o la povera Mrs. Weston sarebbe rimasta delusa. Arrivarono. Mrs. Weston era sola nel salotto, ma aveva appena avuto notizie della bambina. E Mr. Woodhouse aveva ricevuto i ringraziamenti che s'attendeva per la sua visita, quando furono scorte, attraverso la tendina, due figure che passavano dinanzi alla finestra. «Sono Frank e Miss Fairfax», disse Mrs. Weston. «Stavo proprio per dirvi della nostra gradevole sorpresa nel vederlo arrivare stamattina. Resta fino a domani». «E Miss Fairfax?» Ha potuto venir persuasa a passare la giornata con noi. Spero che entrino. Mezzo minuto dopo erano nella stanza. Emma fu estremamente felice di vedere Frank, ma c'era un certo imbarazzo, una quantità di ricordi che davano impaccio da una parte e dall'altra. Si incontrarono cordialmente sorridendo, ma con una coscienza che sulle prime permise di dire ben poco. Ed essendosi tutti seduti di nuovo, ci fu per qualche tempo un tal freddo nel circolo che Emma cominciò a dubitare se il desiderio che aveva sentito da parecchio tempo e che ora veniva soddisfatto, di vedere di nuovo Frank Churchill e di vederlo con Jane, le avrebbe dato un piacere corrispondente. Tuttavia, quando Mr. Weston s'unì alla compagnia e fu mandata a prendere la bambina, non ci fu più mancanza d'argomento o d'animazione o di coraggio o d'opportunità per Frank Churchill per avvicinarsi a lei e dire «Debbo ringraziarvi, Miss Woodhouse, d'un molto gentile messaggio di perdono in una delle lettere di Mrs. Weston. Spero che il tempo non vi abbia reso meno disposta a perdonare. Spero che non ritrattiate ciò che avete detto allora. «No, davvero!» esclamò Emma, lietissima di cominciare. «Niente affatto. Sono proprio lieta di vedervi e di stringervi la mano e di farvi le felicitazioni personalmente». Egli la ringraziò di tutto cuore e, per qualche tempo, continuò a parlare col più vivo fervore della sua gratitudine e della sua felicità. «Non ha una buona cera?» disse egli volgendo gli occhi verso Jane. «Meglio di quanto non abbia avuto mai? Vedete come le vogliono bene mio padre e Mrs. Weston». Ma il suo umore presto riprese il suo brio e con occhi ridenti, dopo aver accennato all'atteso ritorno dei Campbell, egli fece il nome di Dixon. Emma arrossì e gli vietò di pronunciarlo in sua presenza. «Non posso mai pensarci», esclamò, «senza una gran vergogna». «La vergogna», egli rispose, «è tutta mia, o dovrebbe esserlo. Ma è possibile che non abbiate avuto sospetti? Voglio dire, negli ultimi tempi. Prima so che non ne avevate. Non ho mai avuto il più piccolo sospetto, vi assicuro. Questo sembra proprio stupefacente. Una volta sono stato sul punto, vorrei averlo fatto, forse sarebbe stato meglio, ma sebbene io facessi sempre cose sbagliate, erano cattivi sbagli, tali da non rendermi servizio alcuno. Sarebbe stata una trasgressione assai più lieve se io avessi rotto il vincolo del segreto e vi avessi detto ogni cosa». «Ora non vale la pena di rammaricarsene», disse Emma. «Ho qualche speranza», riprese lui, «che mio zio possa venir persuaso a fare una visita a Randalls. Egli desidera di essere presentato a lei. Quando saranno tornati i Campbell, l'incontreremo a Londra e rimarremo là, penso, finché possiamo condurla nel nord. Ma ora sono così distante da lei. Non è duro, Miss Woodhouse? Fino a stamattina non ci siamo incontrati una sola volta dal giorno della nostra riconciliazione. Non mi commiserate?» Emma espresse la sua pietà tanto gentilmente che con un improvviso accenno di gaiezza egli esclamò: «Ah, a proposito!» Poi, abbassando la voce e assumendo un'aria grave per un momento, «spero che Mr. Knightley stia bene». Fece una pausa. Essa arrossì e rise. «So che avete veduto la mia lettera e penso che possiate ricordarvi del mio augurio in vostro favore. Lasciatemi ricambiare le vostre congratulazioni. Vi assicuro che ho inteso la notizia con l'interesse e la soddisfazione più cordiali. Egli è un uomo che io non posso presumere di lodare». Emma fu lietissima e desiderava solo che egli continuasse nello stesso stile. Ma la mente di lui tornò subito dopo ai propri interessi e alla sua Jane, e le prime parole che disse furono: «Avete mai visto una pelle come la sua? Così liscia, così delicata, eppure senza essere proprio bionda. Non si può chiamare bionda. È una carnagione straordinaria, con le sue ciglia e i suoi capelli scuri, una carnagione unica, e così pure la signora che la possiede. Tanto colore quanto basta per la bellezza». «Ho sempre ammirato la sua carnagione», rispose Emma maliziosamente. «Ma non vi rammentate di quando trovavate da ridere perché era così pallida? Quando cominciammo a parlare di lei, ve lo siete proprio scordato?» «Oh no! Che sfacciato ero! Come potevo ardire?» Ma egli rise tanto di cuore al ricordo che Emma non poté fare a meno di dire: «Io sospetto che in mezzo a tutte le vostre perplessità d'allora vi divertivate un mondo a mistificarci tutti. Ne sono sicura. Sono sicura che per voi era una consolazione». «Oh no, no, no! Come potete sospettarmi di una cosa simile? Io ero l'essere più infelice. Non tanto infelice da essere insensibile all'allegria. Sono sicura che per voi era una fonte di gran sollazzo sentire che ci ingannavate tutti. Forse sono tanto più pronta a sospettarlo perché, a dirvi il vero, credo che io mi sarei piuttosto divertita se mi fossi trovata in una simile situazione. Credo che ci sia un po' di somiglianza tra noi. Egli si inchinò. Se non proprio nella nostra indole, aggiunse lei subito con uno sguardo di vera sensibilità, c'è una somiglianza nel nostro destino. Il destino che ha tutta l'aria di volerci unire con due persone tanto superiori a noi. È vero, egli rispose con calore. No, non è vero per quel che riguarda voi. Voi non potete avere chi vi superi, ma è verissimo nel caso mio. Lei è proprio un angelo. Guardatela. Non è come un angelo in ogni suo gesto? Osservate la curva della sua gola. Osservate i suoi occhi mentre li alza per guardare mio padre. Vi piacerà di sentire, chinando il capo e sussurrando serio serio, che mio zio intende darle tutti i gioielli di mia zia. Dovranno essere legati di nuovo. Son deciso a farne mettere alcuni in un ornamento per il suo capo. Non sarà bello tra i suoi capelli scuri? Bellissimo davvero, rispose Emma, e parlò con tanta gentilezza che egli, dalla gratitudine, esplose in «Come sono contento di vedervi di nuovo e di vedervi con sì ottima cera. Per nessuna cosa al mondo avrei voluto mancare questo incontro. Certamente vi sarei venuto a cercare Arfid se non foste venuta qui». Gli altri si erano messi a parlare della bambina e Mrs. Weston aveva parlato d'un piccolo spavento che aveva avuto la sera prima, perché la piccina non sembrava star bene. Credeva di essere stata sciocca, ma aveva avuto paura ed era stata a un pelo dal mandare a chiamare Mr. Perry. Forse avrebbe dovuto vergognarsi, ma Mr. Weston era stato quasi tanto inquieto quanto lei. Dopo 10 minuti, però, la bambina era stata di nuovo perfettamente bene. Questa era la sua storia, ed era riuscita a interessare specialmente Mr. Woodhouse, che la lodò assai per aver pensato di mandare a chiamare Perry, e si doleva soltanto che non l'avesse fatto. Avrebbe dovuto sempre mandare a chiamare Perry se la bambina sembrasse soffrire del più piccolo disturbo, fosse pure per un momento. Non era mai troppo presto per allarmarsi, né poteva mandare a chiamare Perry troppo sovente. Forse era un peccato che non fosse venuto la sera prima, poiché, sebbene la bambina sembrasse star bene ora, tutto considerato sarebbe stato probabilmente meglio se Perry l'avesse vista. Frank Churchill sentì il nome. «Perry», egli disse a Emma, e mentre parlava cercava di attirare l'attenzione di Miss Fairfax. «Il mio amico Mr. Perry. Che cosa dicono di Mr. Perry? È stato qui stamani? E come viaggia ora? Ha messo su carrozza?» Emma non tardò a rammentarsi, e lo capì, e mentre si univa alla risata, era evidente dal contegno di Jane che anche lei udiva, sebbene fingesse di non sentire. «Ho avuto un sogno così straordinario», egli esclamò. «Non posso mai pensarci senza ridere». ci sente, Miss Woodhouse. Lo vedo dalla sua guancia, dal suo sorriso, dal suo vano tentativo di rimanere seria. Guardatela. Non vedete che in questo istante le si presenta agli occhi proprio il passo della sua lettera, in cui mi dava quella notizia, che tutto l'abbaglio le si para dinanzi, che non può badare ad altro, sebbene faccia finta di ascoltare gli altri?» Jane fu obbligata a sorridere apertamente per un attimo. E il sorriso si indugiava ancora, mentre ella si volse verso di lui, e disse con un tono di voce consapevole, basso eppure fermo: «Come possiate sopportare tali ricordi è una cosa che mi stupisce. Qualche volta essi diventano importuni, ma come fate ad andarli proprio a cercare?» Egli ebbe da dire parecchio di rimando e cose divertenti, ma i sentimenti di Emma erano soprattutto d'accordo con Jane nella discussione. E lasciando Randalls e venendone naturalmente fatto un paragone tra i due uomini, essa sentì che per quanto fosse contenta di vedere Frank Churchill e nutrisse amicizia per lui, non si era mai reso conto a tal segno dell'infinita superiorità di carattere di Mr. Knightley. la felicità di questo giorno, felicissimo, giunse al colmo nell'animata contemplazione del valore di lui che risaltò in questo paragone. Se Emma nutriva ancora, a tratti, una certa ansia per Harriet, un dubbio momentaneo sulla possibilità che essa guarisse del tutto del suo attaccamento per Mr. Knightley e fosse davvero capace di accettare un altro uomo per non forzata inclinazione, non dovette soffrire a lungo del ripresentarsi di una tale incertezza. Pochi giorni dopo, la famiglia di John Knightley e Harriet tornarono da Londra, e appena Emma poté avere l'opportunità di rimanere sola per un'ora con Harriet, si convinse perfettamente, per inesplicabile che paresse la cosa, che Robert Martin aveva interamente soppiantato Mr. Knightley e ora costituiva tutto il suo ideale di felicità. Harriet era un po' addolorata. A tutta prima aveva un'aria un po' balorda, ma una volta che ebbe riconosciuto di essere stata presuntuosa e sciocca, di essersi ingannata da sé prima, la sua pena e la sua confusione parvero svanire con le parole e lasciarla senza preoccupazione per il passato e con la più piena esultanza per il presente e per il futuro. Che, quanto all'approvazione della sua amica, Emma aveva subito allontanato ogni timore di tal sorta, venendole incontro con la più incondizionante congratulazione. Emma fu lietissima di dare ogni particolare della serata all'anfiteatro di Astley e del pranzo del giorno dopo. Poteva indugiarvi sopra col massimo diletto. Ma che cosa spiegavano tali particolari? Il fatto era, come Emma poteva ora riconoscere, che Harriet aveva sempre avuto un debole per Robert Martin e che la sua tenacia nell'amarla era stata irresistibile. Al di là di questo, la cosa sarebbe dovuta restare per sempre incomprensibile a Emma. L'avvenimento, tuttavia, era lieto e ogni giorno le dava nuova ragione di ritenerlo tale. Si vennero a conoscere i genitori di Harriet. Risultò figlia di un commerciante abbastanza ricco da poterle passare il generoso mantenimento di cui essa aveva sempre goduto e abbastanza dignitoso da aver sempre desiderato di tenercelata la cosa. Tale era il sangue azzurro che Emma era stata così pronta a garantire prima. Era probabile che fosse puro come il sangue di molti gentiluomini, ma che parentela essa stava preparando a Mr. Knightley, Roy Churchill o perfino a Mr. Elton. La macchia dell'illegittimità, non velata dalla nobile origine o dalle ricchezze, sarebbe stata davvero una macchia. Da parte del padre non fu sollevata alcuna obiezione. Il giovanotto fu trattato liberalmente. Tutto andò per il meglio. E quando Emma venne a conoscere Robert Martin, che ora fu presentato a Harfield, riconobbe in lui pienamente tutta quell'apparenza di senno e di merito che autorizzava le migliori speranze per la sua piccola amica. Emma non dubitava che Harriet sarebbe stata felice con qualunque buona pasta d'uomo, ma con lui e nella casa che egli offriva ci sarebbe stata speranza di più, di sicurezza, di stabilità e di miglioramento. Essa sarebbe stata collocata in mezzo a coloro che l'amavano e che avevano più giudizio di lei, abbastanza ritirata per essere sicura e abbastanza occupata per mantenersi di buon umore. Non sarebbe mai stata indotta in tentazione, né lasciata esposta ad essere scovata dalla tentazione. Sarebbe stata rispettabile e felice. Ed Emma riconobbe che essa era la più fortunata creatura del mondo ad aver saputo far nascere un affetto così costante e perseverante in un uomo come quello. O, se non fosse proprio la più fortunata, la seconda per fortuna dopo lei stessa. Harriet, necessariamente distolta dagli impegni coi Martin, capitò sempre meno a Harfield, cosa di cui non c'era da lamentarsi. L'intimità tra lei e Emma doveva scomparire. la loro amicizia doveva cambiarsi in un genere più calmo di benevolenza. E fortunatamente ciò che doveva essere, ed era necessario che fosse, sembrava che già avesse inizio e nel modo più graduale e naturale. Prima della fine di settembre, Emma accompagnò Harriet in chiesa e la vite data in sposa a Robert Martin con sì completa soddisfazione quale nessun ricordo, perfino di quelli relativi a Mr. Elton che stava loro dinanzi, poteva offuscare. Forse, in verità, in quel momento essa non vide in Mr. Elton altro che il sacerdote, la cui benedizione all'altare avrebbe potuto scendere prossimamente su di lei. Robert Martin e Harriet Smith, l'ultima coppia a fidanzarsi delle tre, fu la prima a essere congiunta in matrimonio. Jane Fairfax aveva già lasciato Highbury ed era tornata ai comodi del suo amato focolare presso i Campbell. Anche i Churchill erano a Londra e non aspettavano che il mese di novembre. Il mese intermedio fu quello fissato, per quanto potevano osare di fissare, da Emma e da Mr. Knightley. Avevano deciso che il loro matrimonio dovesse venir celebrato mentre John e Isabella si trovavano ancora a Harfield, onde permettere loro un'assenza di 15 giorni per passare la luna di miele al mare, secondo il loro piano. John e Isabella e tutti gli altri amici approvarono concordemente. Ma Mr. Woodhouse, come si sarebbe potuto indurre Mr. Woodhouse ad acconsentire, lui che non aveva alluso al loro matrimonio che come a un avvenimento lontano? Quando fu dapprima sondato in proposito, rimase tanto abbattuto che essi perdettero quasi ogni speranza. Una seconda allusione, tuttavia, produsse meno pena. Egli cominciò a pensare che la cosa doveva accadere e che egli non poteva impedirla. Un passo molto promettente dell'anima sulla via della rassegnazione. Però seguitava a non essere felice. Anzi, pareva tanto l'opposto che alla figlia venne meno il coraggio. Non poteva tollerare di vederlo soffrire e di sapere che egli si immaginava d'essere trascurato. E sebbene il suo intelletto quasi si lasciasse convincere dai due Knightley che, una volta avvenuto il matrimonio, l'infelicità del padre sarebbe presto passata, essa esitava, non poteva spingere la cosa innanzi. In questo stato di sospensione, essi furono assistiti, non da un'improvvisa illuminazione della mente di Mr. Woodhouse, o da un improvviso cambiamento del suo sistema nervoso, ma dall'operare dello stesso sistema in un'altra direzione. Il pollaio di Mrs. Weston fu depredato una notte di tutti i tacchini, evidentemente per astuzia umana. Soffrirono anche altri pollai delle vicinanze. Mr. Woodhouse, nel suo timore, vedeva già in tal furto un'effrazione. Si sentiva molto preoccupato, e se non fosse stato il senso di protezione datogli dalla presenza del genero, sarebbe morto dalla paura ogni notte della sua vita. L'energia, la risolutezza e la presenza di spirito dei due Knightley godevano tutta la sua stima. Finché uno di loro proteggeva lui e le sue cose, Harfield era salvo. Ma Mr. John Knightley doveva essere di nuovo a Londra alla fine della prima settimana di novembre. Il risultato di quest'ansia fu che con un consenso assai più spontaneo e lieto di quanto la figlia avesse mai osato sperare per il momento, essa poté fissare il giorno delle sue nozze e fu chiesto a Mr. Elton, prima che fosse passato un mese dalle nozze di Mr. e Mrs. Robert Martin, di unire le mani di Mr. Knightley e di Miss Woodhouse. Lo sposalizio fu come tanti altri sposalizi in cui gli sposi non si curano di fare sfoggio. E Mrs. Elton, dai particolari che le vennero riferiti dal consorte, si formò l'idea che la cerimonia doveva essere stata estremamente meschina e assai inferiore alla propria. Ben poco raso bianco, pochi veli con merletti, una faccenda pietosa. Selina avrebbe sgranato tanto d'occhi quando l'avesse saputo. Ma, nonostante queste deficienze, i voti, le speranze, la fiducia, le predizioni del piccolo gruppo di veri amici che si trovarono presenti alla cerimonia furono interamente corrisposti dalla perfetta felicità dell'unione. Fine della lettura.